Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E si chiude un'altra settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si chiude soprattutto questa giornata. Come si chiude questa giornata? Con la politica italiana sempre puntatissima, centratissima sul dibattito relativo alla riforma della legge elettorale. Diranno gli italiani, come mai qui stanno gli anni con questa legge elettorale che non va bene, poi improvvisamente si concentrano su questo dibattito e non la finiscono più? Evidentemente sarà importante, evidentemente sì, perché i centristi della maggioranza sono in rivolta e dicono: serve un accordo di maggioranza, altrimenti ce ne andiamo. Renzi dice: ma io non mollo. I bersaniani: no, un patto con Berlusconi, altrimenti sarà crisi di governo. Quindi questioni serie. E un deputato da Torre del PD ha detto addirittura: lo spagnolo, cioè il modello spagnolo, in salsa italica è costituzionalmente e politicamente invotabile. E voi che cosa ne pensate di questo tema della riforma elettorale, anche del fatto che Renzi ostinatamente voglia confrontarsi con Berlusconi? Pare dall'ultima notizie di poco fa che questo incontro tra Renzi e Berlusconi avverrà nella sede del PD, forse domani, forse nei prossimi giorni, e comunque appunto la sinistra divisa. Cosa ne pensate di questa situazione? C'è la pagina Facebook per voi, per le vostre opinioni, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, questa è la pagina giusta, oppure per i messaggi al 349-238-6666. Ma siccome questa settimana siamo alla scena politica a quella italiana l'ha rubata per un giorno, per qualche giorno, soprattutto un giorno, il presidente francese Hollande, dedichiamogli così in fine di settimana proprio una nota, una noticella che prendo dal rigorosissimo settimanale francese Le Nouvel Observateur, secondo cui il presidente Hollande avrebbe pensato già sabato scorso, mentre Valérie, la sua compagna tradita, si trovava colpita da un forte esaurimento in un letto d'ospedale, aveva pensato di farle firmare un comunicato per annunciare la separazione. È la soluzione meno peggiore, avrebbe cogitato Hollande secondo il settimanale, prima di capire che forse non era il caso, viste le gravi condizioni di Valérie in isolamento terapeutico in ospedale, dov'è tuttora. Ma concentriamoci sui fatti principali. Partendo appunto dalla legge elettorale, i centristi avvertono Renzi: un accordo senza noi vuol dire crisi di governo, divisione anche nel PD sul confronto con Forza Italia, e questo vertice si farà con Berlusconi nella sede del PD. Russia: attentato a pochi giorni dai giochi invernali, bombe e vittime in Daghestan. In Afghanistan un attacco a Kabul ha causato almeno 16 morti fra cittadini afghani e stranieri. Datagate: Obama difende la National Security Agency ma annuncia limitazioni alla raccolta dei dati e più trasparenza. Liguria deraglia a causa di una frana, l'Intercity Milano-Ventimiglia bloccata la linea con la Francia a binario unico. Iniziamo adesso dalla politica italiana, un'altra giornata convulsa, dicevo, col dibattito politico ancora centrato sulla riforma della legge elettorale, con polemiche, veti incrociati, minacce neanche tanto velate, vero Betta Fiorito da Roma? Beh, diciamo che le minacce ci sono e che si articolano su due fronti, come hai detto tu Roberta. Il primo è quello del nuovo centrodestra di Scelta Civica e dei Nuovi Popolari, cioè gli scissionisti di Scelta Civica, quindi i centristi della maggioranza, che dicono: Renzi deve trovare d'accordo con noi. Prima di tutto. Sulla legge elettorale. E poi invece il problema di Berlusconi, perché Renzi punta i piedi anche contro i bersaniani, e lì si apre il secondo fronte di Alfredo Dattorre, che aveva avvertito: Renzi non incontri il pregiudicato Berlusconi nella sede del PD, ma il nuovo segretario va contro tutti e lo incontrerà probabilmente domani nella sede del PD. Quello che c'è però, la ciccia, parliamoci chiaro Roberta, sì, è tra i centristi che vorrebbero un doppio turno forse, capito? Perché questo permette poi ai piccoli partiti di aggregarsi, sì, e invece un Berlusconi che vuole un turno unico, perché il doppio turno svantaggia da sempre il centrodestra, cioè generalmente è il centrosinistra più frazionato, e quindi il doppio turno avvantaggia il centrosinistra. Perché gli elettori di sinistra di solito vanno a votare anche nel secondo turno, mentre quelli di destra poi si scoraggiano così un po' anche, no? Sì, oppure diciamo che gli elettori di sinistra un tempo erano più frazionati, per cui c'è magari un elettore che può votare SEL e poi al secondo turno votare PD. E anche quelli che votano nuovo centrodestra, però poi al secondo turno votano magari Forza Italia. Però è chiaro che già al primo turno si hanno delle percentuali che fanno capire qual è la somma, e quindi il nuovo centrodestra in un eventuale doppio turno è avvantaggiato perché può dire a Forza Italia di Silvio Berlusconi, però noi abbiamo portato queste persone al secondo turno, no? Perché poi c'è questa diciamo così chiamata al secondo turno, per cui i partiti perdenti dicono votate questo, votate quello. Chiaramente tutto questo a Berlusconi non interessa, lui sa che il centrodestra o comunque Forza Italia vince con un turno solo e va avanti per la sua strada. Renzi chiaramente ha scelto Berlusconi come interlocutore maggiore rispetto ai partiti minori della maggioranza e rispetto anche al Movimento 5 Stelle, che ricordiamo non vuole sapere. Ha bocciato tutte e tre le proposte, ha detto che loro faranno un referendum sul web, ma Roberta, un referendum sul web su una cosa così complicata come la legge elettorale, io auguro a tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle di fare delle proposte. Di avere delle idee chiare soprattutto. Manco io. Sono giornalista politica. Figurati. È fantastico. Gian Roberto Casaleggio è veramente una persona che ha molta fiducia negli italiani e nella possibilità di scrivere una legge elettorale sul web. E anche molta immaginazione. Grazie mille Betta Fiorito. Grazie Betta. E poi appunto vedevo, l'aveva annunciato anche Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, proprio qui a Effetto Notte questa settimana, che avrebbero lanciato questo referendum per chiedere agli elettori che tipo di riforma elettorale volete, che legge elettorale volete. È un po' difficile effettivamente lavorarlo, però se tra voi c'è qualcuno che ha le idee chiare. Ma spostiamoci sull'altro fronte di tensione politico, quello attorno al caso della ministra De Girolamo, che oggi si è difesa in aula sul caso dell'ASL di Benevento. Non ho mai segnalato ditte o primari, non ho mai abusato della mia posizione, non ho mai interferito con le decisioni della dirigenza dell'ASL. Mai abusato del mio ruolo, mai sponsorizzato nessuno, mai esercitato pressioni, la voce ferma, il piglio determinato, il ministro De Girolamo respinge ogni accusa, si difende per un'ora davanti ad un'aula semideserta, sceglie la tesi del complotto ordito ai suoi danni. Certo, non posso negare che mi sia stato da più parti richiesto, anche da persone autorevoli, di intervenire per fare attribuire incarichi nelle strutture sanitarie. Ho sempre detto no. E forse oggi mi fanno pagare anche questo. Il ministro parla di linciaggio, di accanimento senza precedenti, di frasi estrapolate dal contesto e non corrispondenti alla realtà, consegnate ai magistrati. Solo di una cosa si pente, di aver usato espressioni colorite seppur in un contesto privato, poi conclude con una punta di commozione. Voglio che negli anni a venire mia figlia, leggendo ciò che è stato scritto in questi giorni, possa andare a testa alta. In aula applaude solo il nuovo centrodestra, il PD non è convinto, ancora molte zone d'ombra, Scelta Civica prende tempo. Il Movimento 5 Stelle insiste invece sulla sfiducia e chiede di calendarizzarla al più presto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi il governo con il Consiglio dei Ministri ha formalizzato il passo indietro, vi ricordate, sulla questione degli stipendi degli insegnanti. Dopo le polemiche di inizio anno, dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto che dovrebbe risolvere la vicenda degli scatti di anzianità del personale della scuola. Gli insegnanti non dovranno quindi restituire quanto percepito nel 2013. Il provvedimento assicura anche il mantenimento dei nuovi livelli di stipendio maturati grazie agli scatti. Le risorse necessarie arriveranno dopo una trattativa fra ARAN e sindacati, da una nuova sforbiciata al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa o utilizzando una parte dei risparmi derivanti dai tagli dell'era Gelmini-Tremonti. Prima del Consiglio dei Ministri, il Premier Letta ha riunito a Palazzo Chigi la task force che segue il caso dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Dal vertice è emerso che l'Italia ha presentato una petizione urgente alla Corte Suprema indiana per chiedere che i due possano essere rimpatriati in attesa del processo. Il governo ha poi ribadito la sua ferma aspettativa che l'India tenga fede alle assicurazioni fornite sul fatto che il caso dei due Marò non rientra fra quelli per i quali è prevista anche la pena di morte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E spostiamoci sulla pagina estera. Non si registra nessun morto per ora nell'attentato di Makhachkala, capitale del Daghestan, nel Caucaso russo. Secondo il Ministero dell'Interno daghestano, ci sarebbero però, a seconda delle fonti, dai 5 ai 9 feriti, tra cui un paio di poliziotti. Secondo una prima ricostruzione, un uomo è salito al primo piano del ristorante Impero d'Oro, nella capitale del Daghestan, e ha sparato contro con un lanciagranate. Poi all'arrivo della polizia esplosa anche un'autobomba. bomba. Pochi dubbi ci sono sulla matrice terroristica di questo attentato e sul legame coi prossimi giochi olimpici di Sochi. L'azione è avvenuta proprio mentre il presidente russo Putin parlava alle televisioni straniere. Il presidente russo ha assicurato che la Russia farà di tutto per garantire la sicurezza delle Olimpiadi invernali, in programma, ve lo ricordo, tra il 7 e il 23 febbraio. E ha aggiunto Putin, a proposito delle polemiche sulle discriminazioni contro i gay: siate benvenuti, ma lasciate stare i bambini. C'è stato un attentato anche in Afghanistan, un comando di militanti armati, fra cui almeno un kamikaze, ha attaccato questa sera il ristorante libanese Taverna a Kabul, causando almeno 16 morti fra cittadini afghani e stranieri. L'ha reso noto il capo della polizia di Kabul. E infine, negli Stati Uniti, dopo lo scandalo del Datagate, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama oggi ha annunciato il varo di un provvedimento, di una riforma del programma nazionale di sicurezza, ma di questo parleremo poi più tardi, collegandoci direttamente con gli Stati Uniti. Passiamo invece alla cronaca italiana, col deragliamento dell'Intercity, che ha bloccato, probabilmente sta ancora bloccando, la linea a binario unico tra Italia e Francia. Il locomotore e almeno un vagone del treno Intercity 660 a Milano Ventimiglia sono deragliati tra Andora, vicino Savona, e Cervo, vicino Imperia, in un tratto, come vi dicevo, a binario unico. Feriti, a quanto si apprende, i due macchinisti. Squadre di soccorso delle Ferrovie e dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto subito la zona. L'incidente è avvenuto in seguito al crollo del terrazzo di un'abitazione prospiciente ai binari, proprio mentre passava l'Intercity. Sentiamo allora il sindaco di Andora, Flavio Floris. Tenendo conto che sta ferrovia è tra il mare e sta collina, dunque devo dire la verità, è stato un miracolo, nel senso che è rimasto in piedi il treno. Tra i passeggeri nessuno si è fatto male, naturalmente un grande spavento, però con le proprie gambe sono scesi, sono ritornati in stazione, si è organizzato un servizio di navetta per portare tutti a casa, e devo dire la verità, poteva essere veramente una tragedia incredibile. E adesso passiamo invece alla questione di Gioia Tauro. Ieri avevamo qui ospite effettonotte il sindaco di Gioia Tauro, parlava del porto di Gioia Tauro, Renato Bellofiore, lamentando di non essere stato avvisato che ci sarà lì un passaggio tra fine gennaio e inizio febbraio della nave con le armi chimiche che vengono dalla Siria, armi da distruggere. E davanti alla protesta dei sindaci, il presidente del Consiglio convoca tutti per lunedì. Il governo convoca i sindaci della Piana e dalle prime spiegazioni e rassicurazioni sull'arrivo della nave con le armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro, ma la tensione resta alta in Calabria, insieme all'intenzione di ostacolare in ogni modo il trasbordo del carico proveniente da Damasco, che già l'Albania, dopo giorni di proteste, aveva rispedito al mittente. Lunedì pomeriggio il premier incontrerà i sindaci dei vari comuni interessati e in una nota Palazzo Chigi intanto spiega che la scelta è ricaduta su Gioia Tauro, anche perché qui solo nell'ultimo anno sono stati movimentati 3.048 container con sostanze tossiche. Perché noi non lo sapevamo? Si infervora il primo cittadino di Gioia Tauro, Renato Bellofiore. Non ne sappiamo nulla che Gioia Tauro fanno operazioni di tal genere. Bisognerebbe capire per quale motivo in tutto questo tempo non è stato attivato un piano di evacuazione. Siamo contrari a questa decisione perché siamo preoccupati. In Calabria già si pensa alle proteste da mettere in campo contro la grande nave e c'è chi ancora non esclude la chiusura del porto, anche se il governo dà tutte le assicurazioni sull'operazione controllata da funzionari dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, tra cui l'italiano Trifirò. Portate sul porto e poi rimesse in questa nave americana. L'operazione chimica verrà fatta poi a largo, in territorio internazionale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E chiudiamo con una notizia particolare, devo dire. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Rieti, ha partorito un bimbo, e voi avete detto bene, insomma, qualsiasi donna che abbia una gravidanza, se non fosse che questa puerpora è una suora di 32 anni, di origine salvadoregna, che vive nel convento cittadino, il convento di Rieti. Non sapevo di essere incinta, avevo solo un forte mal di pancia, ha riferito la suora ai soccorritori. I sanitari sono arrivati nel convento su richiesta delle consorelle della religiosa, convinte che si trattasse di un problema addominale, ma i medici si sono accorti che erano effettivamente doglie. Non ha saputo resistere alle tentazioni, ha aggiunto la madre superiora, non ha fatto del male a nessuno e proprio non riesco a capire perché ci sia così tanta attenzione attorno a questa storia, ha detto. Sentiamo un po' che cosa dice Renzi. La legge elettorale. Dobbiamo fare i tagli dei costi della politica. Un po' disturbato. Ne parlano sempre. E io penso che noi siamo a un bivio. O la classe politica romana organizza come quelle sette un gigantesco suicidio di massa e non si rende conto che gli italiani hanno detto basta, è l'ora di voltare pagina, oppure finalmente le riforme le facciamo davvero. E per farle davvero si fanno anche con l'opposizione. Quindi Si fanno anche con l'opposizione, però si potrebbero fare anche con i vostri alleati. Sa chi l'ha fatta le riforme solo con la maggioranza ed è stato contestato duramente? Berlusconi. Questa legge elettorale, il Porcellum, è stata fatta dalla maggioranza, dall'allora maggioranza, quindi Alfano e tutti gli altri che stavano con Berlusconi, e il PD, Fassino, allora c'era Fassino, Franceschini, Bersani, diedero parole durissime contro questo accordo. Ci sono le dichiarazioni alla Camera, giustamente. Avete sentito, senatrice Stefania Giannini e onorevole Paola De Micheli? Stefania buonasera. Buonasera a entrambi. Buonasera a entrambi. Adesso parliamo con ciascuna di voi. Volevo farvi sentire, giusto così, è un preambolo con Renzi. Senatrice Giannini, ben ritrovata, segretaria di Scelta buonasera. Civica. Tra l'altro oggi un giorno particolare perché si è aperta e lei ha aperto l'Assemblea Nazionale, no, di Scelta Civica. Certo. Avete ribadito insomma che qui vi fanno contare nella maggioranza, e Renzi si rivolge prima di tutto a voi, nel senso di chi fa parte della maggioranza, oppure insomma si rischia, questo governo rischia, Giannini? È un messaggio che era già pervenuto, perché proprio ho parlato con Matteo Renzi prima dell'Assemblea Nazionale, ci vedremo domani mattina a Firenze, infatti. Quindi è un primo passo, ma forse anche un passo risolutivo per capire se, come credo, c'è un possibile confronto e accordo su quello che serve all'Italia, perché la riforma elettorale non deve servire ai piccoli o ai grandi partiti, deve dare all'Italia uno strumento che sia governabilità e rapporto diretto e fiduciario tra elettori ed eletti. Io non appartengo a quei palazzi romani di cui parlava Matteo, perché insomma, come lui vengo dalle periferie e anzi più di lui sono in politica da pochissimo, e ho ugualmente però la sensazione che sia davvero la stagione costituente delle grandi riforme. Quindi noi siamo lì per lavorare costruttivamente con un governo che però cambi la marcia e sia un governo che da una fase complessa che è stata di un ritmo frenato per vari motivi interni ed esterni, ora abbia coraggio e ambizione di diventare il governo che cambia l'Italia veramente. Stiamo ancora un po' di Renzi. Nell'ultima spiaggia. Come dire, proviamo anche sto Renzi. Ma dopodiché... sai, ha ragione, anche secondo me. Almeno su questo siamo d'accordo. Cioè, è bello che lei sia consapevole di questo. Ho una bella autostima, ma questa cosa la capisco da solo. Cioè, Paola De Micheli, lettiana lei, lettiana, diversamente bersaniana, come la posso definire? Lettiana. Sono anche bersaniana, nel senso che mi sembra che i due siano andati e oggi ce n'è stata l'ennesima dimostrazione, insomma, sempre molto d'accordo, ci siamo reciprocamente sostenuti nei momenti buoni e, come è giusto, nella lealtà dentro la comunità del partito, anche nei momenti cattivi. Ma mi dica, De Micheli, c'è stato anche questo incontro tra Letta e Bersani all'ospedale. Povero Bersani, gli auguriamo di rimettersi subito. Insomma, un miglioramento molto significativo del nostro ex segretario, a cui vanno i nostri auguri più affettuosi possibili. E anche i nostri. Sentiva Renzi, ha detto alla fine: sì, sono consapevole, sono l'ultima spiaggia, qui si va con me, si risolve qualcosa, se no tutti nel baratro. Guardi, allora, che noi che siamo dentro il Parlamento non siamo consapevoli della gravità della situazione è una cosa assolutamente non vera. Abbiamo la precisa consapevolezza. Io, come la collega Giannini, faccio politica da molto meno tempo di Renzi, anche se ho un paio d'anni in più di lui, perché sono in Parlamento da 5 anni e mezzo, e anch'io vengo dalla periferia, dalla mia Piacenza, dove mi trovo ora e dove incontro le persone tutti i giorni, esattamente come tutti gli altri colleghi parlamentari. Non viviamo sulla luna. E dentro il Partito Democratico, maggioranza e minoranza hanno dato una grandissima disponibilità al segretario per fare la legge elettorale, riconoscendo anche la sua capacità di accelerazione su questo percorso, per fare le riforme, ma tutto questo avendo ben presente che il Partito Democratico ha sulle spalle il governo del Paese, che ha una responsabilità grandissima, una responsabilità che ci obbliga a fare un accordo di maggioranza sulla legge elettorale e sulle riforme e a sforzarci il più possibile e con tutti di allargare questo accordo alle forze di opposizione. Questo è un metodo che in politica è anche sostanza, che da una parte garantisce il risultato che giustamente il segretario vuole ottenere, ma che tutti noi vogliamo ottenere. Il risultato di cambiare il Paese è la ragione fondativa per la quale ciascuno di noi fa politica, perché se volessimo tenere le cose come sono, rimarremo nelle nostre case e i nostri mestieri originari, ma sappiamo perfettamente che in questa crisi, in questo momento drammatico, così come ha dimostrato il governo negli ultimi 9 mesi, pur con qualche errore, pur condizionato internamente, esternamente, con la vicenda Berlusconi che ha fatto perdere un sacco di tempo, però abbiamo sulle spalle la responsabilità di uscire questa crisi, da questa crisi. Beh, direi di sì. Ma arrivano i primissimi segnali positivi, i primissimi. Allora io intanto... Se noi ci perdessimo per 4 mesi a fare una campagna elettorale, perché questo è il rischio di cui si parla in queste ore. Cioè il rischio che Renzi voglia portare alle elezioni insieme a Berlusconi? No, il rischio non che Renzi voglia portare alle elezioni, il rischio che un metodo sbagliato e una modalità sbagliata per arrivare ad un obiettivo nobile come quello di trovare una legge elettorale che dia governabilità e rappresentatività, ok, che garantisca il massimo della rappresentanza, per raggiungere un obiettivo nobile, se ci si arriva nel modo sbagliato, non coinvolgendo adeguatamente i partner di governo, è inevitabile che questo possa avere delle conseguenze. No, è chiarissima la sua posizione. Far scoppiare nelle mani non di Letta, degli italiani questa bomba qua. Diamo un po' di spazio anche a Stefania Giannini, ricordatevi onorevoli senatrici di essere, mi raccomando, sintetiche, perché i tempi sono quelli che sono. Intanto vedo un lancio di agenzia: Renzi incontrerà Berlusconi domani alle 16, quindi domani alle 16, poco prima della merenda praticamente. Vedo anche i messaggi delle ascoltatrici e degli ascoltatori a proposito di riforma elettorale. Qualcuno sta dando qualche idea, visto che prima si parlava del Movimento 5 Stelle che ha lanciato il referendum, che lo lancerà. Luciano dice: proporzionale puro, senza sbarramento al primo turno, tutti devono essere rappresentati nel Parlamento, e secondo turno tra i più votati e governa chi vince. E poi un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: in Islanda sul web ci hanno fatto una costituzione, non sottovalutate la creatività dei cittadini. Stefania Giannini, senatrice. Il doppio turno di coalizione che garantisce la governabilità, insomma, fa... No, ma le volevo chiedere un'altra cosa, mi perdoni. Renzi all'inizio, quando l'abbiamo sentito, adesso sta ancora parlando all'invasione barbarica, ha detto chi è che aveva fatto la riforma elettorale, aveva preso decisioni solo con la maggioranza? Proprio Berlusconi, dice, quindi io cerco di fare il contrario, di andare anche verso l'opposizione. Dicevo, visto che lui è un esperto e uno specialista del cambiare il verso, che usi la direzione giusta, cioè prima si accordi e comunque si confronti con i suoi alleati, perché hanno responsabilità come lui di governo e quindi di fronte al paese, e poi chiuda pure la partita con l'opposizione. Quindi una questione di cronologia e di priorità. Beh sì, ma più che di priorità direi di ordine logico delle responsabilità, no? Perché chi sta al governo non sta al governo per caso, sta al governo perché ha scelto di ritenersi e di essere responsabile di fronte al paese delle scelte che si fanno. Soprattutto è stato scelto, domani dirà queste cose quindi a Renzi, quando lo vedrà. Che ora lo vede lei, senatrice Giannini? È il secondo caffè, alle 9:30. Ah, alle 9:30, prima di Berlusconi quindi, sì, mi raccomando, sì, lo prima. Prepari. Penso di essere la prima. Lo prepari all'incontro allora. Senz'altro, farò del mio meglio. Senta, invece Paola De Micheli, sentiamo un attimo ancora Renzi. Secondo me, se c'è un accordo vero tra PD e Forza Italia, anche il partito di Alfano potrebbe starci. Hanno detto che faranno Ha capito Paola De Micheli qual è la strategia? Mi appello al lodo Giannini. Prima... nel senso che io credo che l'onorevole Giannini abbia assolutamente ragione. Io credo che si cominci dalla maggioranza, anche cronologicamente, visto che mi sembra che l'agenda di domani faccia ben sperare, e poi giustamente si allarga Forza Italia. Io eviterei di incappare in pasticci rispetto ai quali poi dopo ci si devono assumere delle responsabilità non volute. Ogni azione in politica ha delle conseguenze, e così come c'è stata la disponibilità della maggioranza da subito ad intraprendere un anno e mezzo di cambio delle regole, che siano queste costituzionali, quelle della legge elettorale, bene, questa disponibilità va immediatamente colta e va, secondo me, privilegiata. Ripeto, il governo non è che va difeso perché è il governo va difeso preso perché noi incominciamo ad avere i primi risultati positivi e non possiamo vanificare i sacrifici di tutti, delle imprese, degli lavoratori, di chi purtroppo il lavoro lo ha perso. Noi dobbiamo trasformare questi numeri positivi che escono anche sul vostro giornale in posti di lavoro, è il nostro dovere assoluto, obbligo maniacale. Poi è ovvio che se ci sta anche Forza Italia siamo tutti contenti perché è una garanzia di maggiore e massima condivisione dei cambi della Costituzione. Detto questo, insomma, domani sarà una giornata sicuramente importante e noi lunedì ci aspettiamo che il segretario venga in direzione a dirci che la maggioranza e anche alcune forze di opposizione hanno trovato un accordo sulla legge elettorale. Dal presidente Letta ci aspettiamo che cambi il governo, che riparta con un nuovo programma aggiornato con i risultati ottenuti e denso, diciamo così, di risposte per i risultati non ottenuti, ma insomma, per come lo sentiamo in questi giorni, sappiamo che è particolarmente agguerrito contro la crisi, sì, non agguerrito contro compagni di partito. Voglio farvi un'ultima domanda, senatrice Giannini, e poi anche all'onorevole Paola De Micheli, sulla vicenda della ministra De Girolamo. Lei ha chiesto le dimissioni ieri o l'altro ieri, mi pare, poi oggi ha detto beh, insomma, dovrebbe vedere se la situazione è imbarazzante o meno rimanere al governo. Sinteticamente, che cosa pensa dopo questa autodifesa oggi della ministra? Non la richiesta di dimissioni, ma mantengo la posizione che ho espresso, quando c'è un profilo di profondo imbarazzo, come mi sembra anche dalla relazione che ha fatto in Parlamento, continua ad emergere, è chiaro che la valutazione è del Presidente del Consiglio, perché è lui che deve decidere come valutare questa situazione. Ma il ministro deve anche valutare l'opportunità, è una decisione sua, di eventualmente dimettersi. Questo perché? Perché insomma, se vogliamo restituire la politica all'etica, non è solo una questione di reati che non ci sono, per carità, non è solo indagato. Una questione assolutamente. È una questione di opportunità, Politica. Io ecco, credo che alla fine, se noi vogliamo far sì che non solo la politica, ma chiunque ha ruolo istituzionale e di responsabilità possa dare anche un indirizzo e debba dare un indirizzo, si deve partire dall'esempio personale. Quindi è solo un invito a una riflessione. Poi il ministro ha la sensazione di essere al posto giusto con le carte in regola, benissimo che resti, e anzi esprimo solidarietà per il linciaggio mediatico che comunque è qualcosa di ignobile. Paola De Micheli, ultima domanda anche a lei, che ne pensa di questa vicenda? Lei che è lettiana. Io sono rimasta molto colpita dal linciaggio che ha subito il ministro De Girolamo. Detto questo, rispetto alle sue dichiarazioni di oggi in aula, è stata convincente? Rimane qualche profilo, diciamo così, ancora un pochettino dubbio, ovviamente. È stata una difesa molto anche appassionata, dimostrato una grande passione per quello che la ministra sta facendo. Detto questo, noi insomma vigileremo per capire ancora meglio che cosa è accaduto in quei giorni, ma siamo anche certi che il presidente Letta abbia ben chiara la situazione e saprà come gestire questa vicenda al meglio possibile, valorizzando le potenzialità e magari insomma comprendendo anche un pochettino più del dettaglio se ci sono effettivamente dei profili eccessivamente gravi. Devo dire che comunque quando si tratta di una donna c'è sempre ci si accanisce un po' di più di crudeltà. Devo dire di questa sì. Questa cosa sì. È un po' malata da parte della politica italiana, sì, dobbiamo sì. riconoscere. Ho notato questo, è vero. Intanto allora Stefania Giannini, buon incontro domani con Renzi. Grazie. Mi raccomando, grazie. Ce lo saluti. Grazie Paola De Micheli, buon lavoro, buona continuazione anche a lei. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie. Buon lavoro. Sentiamo anche Renzi come sta lavorando. Cosa dice? Non è normale. Sì. Io non ci cascherò mai al giochino di dire è colpa dei giornali. Io mi limito a dire una cosa molto semplice. Sentiamola. Dica se è vero o no che lo critica ogni giorno. No. Non è vero. No, se lei mi domanda. Questa è una notizia. No, non è che lo critica ogni giorno. Se lei mi domanda cosa ieri ha fatto il governo in questi 9 mesi. Ha detto che non ha fatto niente per 10 mesi. Io ho detto e le ribadisco che in questi 9 mesi di governo sulle riforme non si sono fatti passi in avanti. Mi dica se non è vero. Perché la verità è rivoluzionaria, diceva uno che a sinistra, come dire, aveva qualcosa da dire. La verità è rivoluzionaria, sulle riforme istituzionali non si sono fatti passi in avanti. Ho domandato se qualcuno di voi chiude gli occhi e pensa a cosa ha fatto il governo. Cosa vi viene in mente? A me viene in mente l'IMU. non so cosa viene. Chiudete gli occhi anche voi, perché pensate, c'è sempre la pagina Facebook per voi di Effetto Noto, i messaggi 349-238-6666. Leggo intanto i tanti vostri messaggi, per esempio c'è quello di Maurizio da Brescia, che dice: cara Roberta, vuole chiedere alle sue interlocutrici come intendono modificare in senso restrittivo gli aumenti di indennità e vitalizio in Lazio e Sicilia. Lo leggo solo adesso perché me ne arrivano tantissime e non riesco a stare dietro a tutto, anche se sentiamo se Renzi l'ha affrontato anche stasera questo argomento. Sentiamo adesso le visioni barbariche, se ridice qualcosa. Ha twittato dal mio telefono, lei può lavorare dal mio computer. Basta che poi non mi dia un cane. No, adesso questa è la parte ludica, magari lo riprendiamo dopo. Non dal cane, ma da un tablet invece per twittare Renzi, perché notoriamente è velocissimo sulla tastiera. E leggo anche sulla pagina di Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Donata dice: ma questi dov'erano quando è stato fatto il governo con Berlusconi? Però pare, almeno dalla senatrice Giannini e dall'onorevole De Micheli, che adesso non sa più il problema, l'impresentabilità, il fatto che sia pregiudicato Berlusconi, ma che prima con la maggioranza e poi semmai anche con lui. E le dice: il patto con Mister Berlusconi è pericoloso, non dobbiamo dimenticarci che fine fece la bicamerale con D'Alema e poi l'ex presidente del Consiglio solitamente il giorno dopo, cioè Berlusconi, smentisce ciò che dice il giorno prima. Riccardo: rigurgito questo della campagna elettorale bersaniana del 2013 e sappiamo gli esiti, o sei con loro o buttano giù il governo. Roberta scrive: idioti, come sa farsi male la sinistra italiana, pochi altri. Berlusconi è decaduto politicamente, fisiologicamente eccetera, questi ancora non l'hanno capito, hanno bisogno del Berlusca per sopravvivere. Bianca dice: non sono credibili entrambi. Ma adesso vi ricordo prima quali sono stati i fatti principali della giornata e poi ci colleghiamo direttamente con la Mary. Quindi avete sentito, sempre al centro questa benedetta legge elettorale di cui domani Renzi parlerà anche con Berlusconi. I centristi intanto lo avvertono anche qua, Effetto Notte: un accordo senza di noi vuol dire crisi di governo e così anche divisioni nel PD. E poi in Russia, dove c'è stato l'attentato in Dagestan a pochi giorni dai giochi invernali, in Afghanistan un attacco a Kabul ha causato 16 morti. Il Datagate: Obama difende la National Security Agency ma annuncia limitazione alla raccolta dei dati, e tra poco sentiremo. E questo treno che è deragliato in Liguria a causa di una frana è l'Intercity Milano Ventimiglia. Caro Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Mario, allora, finalmente dopo lo scandalo del Datagate, della rivelazione dei dati segretissimi dell'organismo che negli Stati Uniti raccoglie i dati e le informazioni su tutti e su tutto, Obama ha deciso di fare una riforma e l'ha annunciato oggi, no? Sì. Sì, Roberta, certo, l'ha annunciato oggi. Dunque intanto ti preannuncio che mi prendi per strada, quindi forse avremo una comunicazione. Va benissimo, non così in presa diretta. Avere dello studio a New York, vera diretta. Anzi, salutaci qualcuno, Obama, se lo vedi per strada, puoi anche passarci qualcuno, non c'è nessun problema. Certo, chiediamo a qualcuno, non mi sembrano in questo momento molto interessanti quello che è successo. Ognuno va avanti per la sua strada. Giustamente. Però è stato un discorso importante quello di Obama di oggi, non soltanto perché finalmente, come dire, ha affrontato un argomento centrale, uno degli scandali più gravi della sua amministrazione, che ha avuto poi ripercussioni a livello mondiale, ma perché ha dato un contesto storico e soprattutto devo dire ha tenuto dritto, nel senso che è vero che ha introdotto una serie di modifiche, per esempio ha chiesto che i metadati, questi milioni di dati che sono stati collezionati dal governo americano, non restino più nelle mani del governo, ma vadano gestiti da una terza parte, magari la compagnia telefonica che questi dati di fatto ce li ha o potrebbe averli, oppure una terza parte da definire. E ha stabilito che perché l'NSA possa andare a cercare questi dati deve rivolgersi a un giudice, ma a un giudice, un tribunale segreto, diciamo, ottenere il permesso da questo tribunale segreto, e poi una serie di altre misure, tutte devo dire con sfumature che ci danno l'idea che questo presidente, un presidente che tutelava i diritti civili, un presidente che era contro il Patriot Act, che era contro Guantanamo, è cresciuto in questo suo ruolo di presidente. E si vede che i briefing ogni mattina sui pericoli del terrorismo americano, cioè si è adeguato al ruolo, che certi strumenti sono importanti. Senti Mario, ma io leggevo dalle agenzie che l'Unione Europea in una nota di Bruxelles dice: bene, Obama ci ha ascoltati, dimostra di aver ascoltato i timori dell'Unione Europea riconoscendo la necessità di agire. Poi leggo un'altra agenzia: Obama dice dice continueremo a spiare le attività dei governi, perché dice è una questione di sicurezza. Allora, Obama è stato, ti ripeto, è stato molto bravo, chi gli ha scritto, ma sicuramente lui ha contribuito. Questo discorso lo hanno preparato ormai da un mese alle Hawaii, quando era in vacanza, lo ha ripassato, insomma è un discorso molto molto costruito e calibrato. Obama ha detto assolutamente i nostri alleati, i nostri i presidenti, insomma i governanti non saranno spiati, tra virgolette, però si è riferito soltanto ai capi di Stato, non ai governi, e cioè i governi potranno continuare ad essere spiati, perché ha detto Obama, beh, cari miei, ma qua tutti i governi spiano, e il fatto è che, e qui devo dire è stato uno dei punti centrali, perché ha usato anche un tono, come dire, ironico, un po' distaccato, ha detto ma insomma posso dirvi che una gran parte di quei governi, soprattutto quelli che erano più scandalizzati degli altri dalle rivelazioni di Snowden, beh, fanno esattamente la stessa cosa. E dunque è da sempre che i governi fanno si spiano, queste cose, certo. Bisogna farle ovviamente con moderazione e con prudenza, però siamo in un'epoca in cui la tecnologia è cambiata, in cui il mondo sta cambiando, l'informazione digitale ci apre nuove sfide, anche che possono essere portate contro di noi dal terrorismo, perché anche loro usano poi questa tecnologia digitale. E dunque in questo contesto dice noi ci riserviamo il diritto di spiare questi governi, e ha aggiunto una cosa molto interessante, purché nel momento in cui questo si scopra non si ritorca contro di noi, perché sembra che poi ci può portare danni politici o diplomatici, quindi lo facciamo però ma senza dirlo, che queste cose si raneggia. Altra cosa interessante, lo spionaggio sulle aziende è accettabile soltanto in relazione all'antiterrorismo. Le informazioni potranno essere utilizzate solo per questo, sarà illegale per chiunque del governo usare o trasmettere questo tipo di informazioni per spionaggio industriale. Quindi ha cercato di garantire il presidente americano su queste cose, però l'impianto della struttura antiterrorismo e di sicurezza che è stata costruita negli anni resta. Non può essere stravolta, chiaramente. Non può essere stravolta. Senti, fino alla prossima talpa. Devo dirti, hai ragione in fondo, no? Non so tu cosa pensi, Roberta, però. No, penso, il pericolo del terrorismo. Sì, penso che sia un'illusione fare diversamente, anche se aspettiamo la prossima talpa, Mario Platero, che dici? Aspettiamo la prossima talpa, infatti Obama ha fatto un riferimento a questo nel discorso, parlando di Snowden. Ha detto che non avrebbe commentato perché il caso è aperto, in questo momento c'è un'inchiesta aperta, però ha detto, e questo è un commento ovviamente molto chiaro, se chiunque dei dipendenti pubblici a cui sono affidate missioni che per definizione devono essere segrete per proteggere lo Stato, poi si mettono a divulgarlo perché gli interessa o gli piace, allora lo Stato e il Paese a quel punto davvero non sarà più sicuro. Grazie Mario Platero, tu cammina sicuro per la tua strada invece lì a New York, e sentiamo che cosa dice con la sua sicurezza ancora Renzi alle evasioni barbariche. Leggere un libro, io sono fiero, orgoglioso, la cosa principale della mia città per me è aver raddoppiato le biblioteche, la dico in continuazione, cioè noi abbiamo preso i metri quadri delle biblioteche e li abbiamo moltiplicati per due. Siamo in territorio pericoloso. Questa è la versione intellettuale di Renzi, invece droghe leggere le legalizziamo. No, perché la biblioteca pericolosa non l'ho mai vista. Per me no, in questo momento no, io dico di no in modo secco, poi vedremo quello che accadrà, mi spiego e che cosa proporrei. Oggi la droga leggera e la droga pesante è trattata penalmente allo stesso modo, più o meno. Perché c'è stato un paio di statisti, uno si chiamava Gianfranco Fini, uno si chiamava Giovanardi, e si chiamano tutti e due ancora così, che hanno fatto una riforma della legge della droga che si chiama per l'appunto Fini-Giovanardi, poi Fini è recidivo perché ha fatto anche la Fini-Boss, insomma Fini ci ha messo bocca dappertutto, e cosa ha fatto? Che ha sostanzialmente avvicinato la droga leggera e la droga pesante. Quasi che uno spinello non si dice più, ma insomma diciamo una parte, sarebbe interessante parlare delle droghe sintetiche oggi che arrivano su internet, noi abbiamo un osservatorio droga al comune. Beh, l'argomento diventa sempre più articolato, quindi direi parliamo con il nostro appuntamento quotidiano con l'Europa, c'è ICE 2014, qui non parliamo di ghiaccio però, al debutto invece questo progetto dell'Europa alla prova diciamo della democrazia diretta e l'iniziativa di cittadinanza europea. Europa 24 notte. Verso le europee. Sapete cos'è l'ICE? Tranquilli, non è una nuova tassa. È l'iniziativa di cittadinanza europea. C'è, ma non si vede. Sì, perché l'idea è quella di introdurre anche per l'Europa un meccanismo della cosiddetta democrazia diretta, quindi quel principio per cui in Italia, ad esempio, si possono proporre iniziative di legge popolare oppure si indice un referendum. In Europa non è così. Si eleggono i parlamentari europei, che però le leggi di fatto non le fanno perché l'unico legislatore è la Commissione europea, o si tratta tramite i governi. I singoli cittadini propongono petizioni, ma nulla più. Dunque, dov'è il vero rapporto diretto? Bruxelles se l'è chiesto e nel lontano 2009, con il Trattato di Lisbona, si è introdotta appunto l'ICE. Iniziativa di cittadinanza che ha faticato a vedere la luce, tanto che il regolamento attuativo è in vigore dal 1 aprile 2012. Cos'è? Uno strumento per cui i cittadini possono sollecitare direttamente la presentazione di una direttiva da parte della Commissione, presentando almeno 1 milione di firme, raccolte in un anno di tempo e in almeno 7 Paesi membri. C'è anche un sito che tiene conto di tutte le raccolte di firma in corso. Ora ce ne sono 8. L'indirizzo è ec.europa.eu/citizeninitiative. Ma voi ne avete mai sentito parlare? No, perché nessuna raccolta firme è mai arrivata a centrare l'obiettivo, fino ad ora. Perché ci sono riusciti per la prima volta i forum per l'acqua, gli stessi che in Italia hanno promosso il referendum per l'acqua pubblica. Corrado Oddi è uno dei promotori. Sindacato Europeo dei Servizi Pubblici, assieme alla Rete Europea dei Movimenti per l'Acqua, nell'arco di un anno abbiamo raccolto 1.600.000 firme. È la prima volta che si attiva questo strumento e anche con un risultato molto significativo. Il secondo passo che prevede la procedura europea è un invito da parte della Commissione per illustrare proprio queste proposte. L'avete già ricevuto? Avete una data? Sono in corso contatti sia per avere questa relazione formale con la Commissione e anche per un'audizione al Parlamento europeo. Vogliono adesso tra febbraio e marzo. Anche perché in realtà la Commissione europea sostanzialmente deve dare una prima risposta entro il mese di marzo rispetto a cosa intende fare delle questioni che noi abbiamo sollevato con l'iniziativa dei cittadini europei. Dunque, in questo 2014, dopo una lunga storia, per la prima volta vedremo applicata in Europa un'iniziativa di cittadinanza europea, un passo che a Bruxelles definiscono storico, ma altrettanto problematico, visto che mai la si è applicata. I tempi tecnici dell'iter dovrebbero peraltro concludersi, come sentivate, attorno a metà marzo, alla vigilia della Giornata Internazionale dell'Acqua, il 22 marzo. E soprattutto alla vigilia delle elezioni europee, quando i cittadini europei davvero dovranno parlare con i loro voti. Per un debutto non poteva essere momento e tema più spinoso. L'acqua al massimo da bere, quando calfa, quando sette, l'acqua vita per un fiore, per un pesce nella rete. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece occupiamoci proprio della notizia che vi ho annunciato poco fa, della medaglia di bronzo a Carolina Kostner con il nostro Dario Ricci. Dario e Carolina, insomma, era a caccia del suo sesto titolo europeo, ma mi pare che sia andata piuttosto bene ugualmente, no? Ma sì, ha fatto una buona impressione, buonasera a tutti. Ciao, Roberta. Dario. Terzo posto alle spalle delle russe Lipnitskaya e vi dico subito la Sotnikova, nomi sempre complessi naturalmente. Sì, sì, sì, sempre una bella sciarada. Terzo posto che va letto soprattutto in prospettiva Sochi 2014. Carolina, dal punto di vista artistico, nell'interpretare il suo bolero, è ritornata da pochissimi giorni, quasi da poco più di un paio di settimane al bolero dopo un'incerta Scheherazade di inizio stagione. Dal punto di vista artistico dà la paga a tutte, Roberta. Quello che manca è un po' la gamba, perché nella seconda parte del programma è estremamente impegnativo, abbiamo cercato un triplo salto trasformato in doppio e poi addirittura una scivolata, quindi queste gambe tempo. Sì, ma sono più i quadricipiti tempo. O i gemelli femorali, quali sono quelli del polpaccio? No, direi proprio là il quadricipite Non tiene. Che tiene tutta l'impalcatura, poi Carolina anche un fisico profondamente diverso da quello di molte delle sue rivali, e quindi bisogna mettere su il fiato e essere in forma. Le Olimpiadi scattano il 7 febbraio, quindi un po' di tempo ancora c'è. Da sottolineare anche il sesto posto di Valentina Marchei. Che è sempre... Senti, ma perché avevo visto anche una gara di oggi, si chiama Danza sul Ghiaccio, la sua invece non è danza sul ghiaccio, è sempre pattinaggio, no? No, assolutamente, pattinaggio di figura, assolutamente. Sì, il programma è sempre molto trata, nono posto anche per Roberta Rodighiero, quindi vari italiani, bel risultato di squadra, diciamo, d'insieme. Quindi l'aspettiamo adesso ai Giochi Olimpici di Sochi, sperando che tutto vada bene, perché qui tra discriminazioni, attentati eccetera, insomma, ci auguriamo. Di solito soffre molto l'atmosfera olimpica, l'abbiamo vista sia a Torino 2006 e a Vancouver 2010. Gli risultati di queste ultime stagioni l'hanno convinta, l'hanno spinta fino a tentare anche Sochi 2014, i numeri ci sono. Incrociamo le dita. E non i patti. No, se no una bella scivolata. Grazie Dario Ricci. Grazie, ciao Dario. Per... Ciao. E vedo adesso, accidenti, si è congedato Matteo Renzi nell'invasione barbarica. Abbiamo sentito un po' spot qua e là di cose abbastanza interessanti, fulgoranti, ma adesso è il caso invece di capire che tempo ci aspetta per questo fine settimana. Tutte queste piogge, almeno al nord ma anche al centro, voi al sud state un po' meglio. Colonnello Mario Giuliacci, sì, buonasera, Roberto. Un raggio di sole per noi. Io mi impegnerei, direi, in maniera incredibile per farti avere il sole, per farlo avere, direi, a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Ma i risultati sono pessime, perché non solo pioverà domani, dopodomani, soprattutto al nord, ma dopodomani su tutta l'Italia, ma questo tempo piovoso ce lo porteremo dietro ancora per tutta la prossima settimana. Ma andiamo ai dettagli. Domani ancora piogge sul nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio, bello sul resto d'Italia, soprattutto al sud, sempre domani nevicate sulle Alpi oltre 800.000 metri, le piogge purtroppo domani ancora saranno forti, questa volta sul Levante, Ligure e sul Friuli. Arriviamo a domenica, questa volta piove su tutta l'Italia purtroppo, e piogge che saranno forti soprattutto sul Lazio, ancora nevicate, l'unico aspetto positivo, ancora nevicate sulle Alpi oltre 1.000-1.300 metri, per far contenti gli sciatori e gli operatori turistici di montagna. In compenso, l'unica ciliegina, diciamo, che ci può stare è che le temperature saranno miti, non soffriremo il freddo. Non so se questo vi può consolare. Dai, possiamo per il momento, sai, quando non c'è molto da, diciamo, da scialare, almeno ci accontentiamo di questo. Bisogna guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Senti, ma colonnello Giuliacci, finora queste temperature, io che soffro il freddo terribilmente, proprio io odio il freddo, come diceva il grande Puffo, o uno dei Puffi, insomma, ma secondo te queste sono temperature abbastanza, diciamo, nella norma, anche se un po' più su della media stagionale, o proprio sono fuori controllo? Proprio? No, infatti sono al di sopra della media, soprattutto al centro-sud, dove sono state, direi, da dicembre, lo sono tuttora, 2-3 gradi al di sopra della media. Lo sono anche sulle regioni di nord-est, un po' meno sul Piemonte e sulla Liguria, che sono state sempre un po', diciamo, interessanti da piogge, quindi da cielo coperto, per cui, diciamo, le temperature sono qui, solo qui nella norma. Altrove direi che sono decisamente al di sopra della media. Comunque niente di strano, colonnello, nel senso, qualcuno dice, io mi rallegro del fatto che non faccia proprio così freddo, un freddo così invernale, dicono ma questo non è positivo perché significa che i cambiamenti climatici, sai, ogni tanto questo argomento per forza, sì, no? Sì. Ma i cambiamenti climatici sì, possono essere chiamati in ballo o meno, ma allora dovremmo dire che il grande freddo che è avvenuto negli Stati Uniti è colpa anche quello del global warming. Sono un po' scettico a questo riguardo. Cioè, noi guardiamo al tempo mite che è qui in Italia, ma ci dimentichiamo che in altre parti del mondo, appunto citando gli Stati Uniti, hanno avuto l'inverno più freddo almeno da 50 anni ad oggi, quindi, come si vede, non bisogna guardare solo al nostro orticello, ma anche un po' più ai cavoli degli altri, proprio di orto. Vabbè. Grazie colonnello Giuliacci, ricordo per le previsioni www.meteogiuliacci.it. Grazie colonnello, buon tempo a te comunque sia. Grazie Roberta, un saluto agli ascoltatori, buonasera.